Elba, 1 agosto 1967. Care Eleuterio, sono qui con il mare davanti e il cuore pieno di amarezza, che dipende da te. Non il mare davanti, Eleuterio, l'amarezza. C'è una nuvola bianca alta sul mare. Io penso che in fondo quella nuvola non è che l'elba del cielo. E penso anche che oltre a essere dottore in economia e commercio sei anche cretino. Non si fa di un albergo come questo un mercatino rionale solo perché io, poverina, ho organizzato una festa da ballo. E sabato quando verrai ne parleremo a lungo. Sempre tua. Roma, 2 agosto 1967. Indistruttibile sempre mia. Ho avuto la tua lettera. Io ho appreso con dolore, leggendo la data, che non puoi essere tu, la donna che in un momento di sconforto ha ingerito un paio d'etti di pastiglie di barbiturici. Pazienza. Sì, certo hai ragione. Non si litiga per una festa da ballo, anche se la festa di cui parliamo ha visto scatenati ed euforici ben 60 cadetti dell'Accademia Nautica in crociera premio. E tutti e 60 tuoi ospiti. No! No, non si riduce un albergo come un mercatino rionale, lo si distrugge. Eleuterio, ho scritto. Un'altra volta non mettere il mangime del canarino nella scatola sulla quale è scritto cannolicchieti da brodo. Cotto nel brodo è immangiabile. Elba, 3 agosto 1967. Caro Eleuterio, sorianoide. Insomma, hai capito, una specie di sottospecie di soriano. Randagio. Io sono qui, e il mare lì. E quando invece sono nell'acqua, anch'io sono lì, e il mare, pur restando lì, diventa che sta qui. Ma tu queste cose non le puoi capire. Il bagnino dello stabilimento passeggia in su e in giù. E io penso che il bagnino non è altro che il portiere delle cabine con possibilità acquatiche. Ah, cosa vuoi che sia una festa da ballo per 60 accademisti? Non dimenticare che il giorno prima i poverini avevano invitato tutti noi dell'albergo a bere un aperitivo sul ponte della loro nave. Sempre tua. Roma. 4 agosto 1967. Irrecuperabile sempre mia. Con leggiadra incoscienza continui a sorvolare sui particolari. Te li sei forse dimenticati? Io no. Ci sono cose oltre tua madre che non posso dimenticare. A proposito di tua madre, qui vicino si è accampato un circo equestre. Sabato, quando verrò, riprenderemo il discorso della festa da ballo. Eleuterio. Ho scritto. Il canarino rifiuta i cannolicchietti da brodo. Come la mettiamo? Elba, 5 agosto 1967. Caro Eleuterio, micioni. Per il canarino c'è dell'altro mangime nel porta bonbon in salotto. Qui il tempo è meraviglioso. Un bambino gioca con un aquilone. Io penso che l'aquilone non è che un neo colorato sull'azzurro del cielo. Ricordo perfettamente i particolari, Eleuterio. Stavamo aspettando l'ora di cena, guardavamo il mare e... Eleuterio, che cosa faranno a quest'ora i cavallucci marini? Ma cosa vuoi che ne sappia? Forse tireranno calcetti marini. Ma non si mangia in questo albergo? Tra poco, Eleuterio. Ma se non vedo nemmeno i tavoli? Si mangia in piedi stasera. C'è un ballo con cena fredda. Guarda, io non voglio mangiare in piedi e per di più ballando una cena fredda. Eppure lo dovrai fare. Sei il marito della signora che offre. Che cosa offre? E perché offre? E chi paga quello che offre la cosiddetta signora? Tu... Si tratta di un debito di riconoscenza. Ricambiamo la cortesia, Eleuterio. È sempre bene essere in buoni rapporti con la Marina. Ma che c'entra la Marina? C'entra, c'entra. Ieri siamo stati invitati a visitare la nave dei cadetti e stasera offro io. Cioè tu hai 60 cadetti. 60? E io devo offrire un ballo con cena fredda a 60 cadetti della Marina. Io che con la Marina non c'entro niente. Io odio il mare. Sì. Io sono tenente di fanteria. Al massimo, guarda, io posso offrire un supplì a testa. Eleuterio, nella mia cena fredda non sono previsti supplì. Si tratta di una cosetta alla buona, ma di tono. Aragosto e maionese, tartine di caviale, arrosti vari, insalata, zuppa inglese, macedonia di frutta, gelato e pasticceria mignon. Vini francesi bianchi e rossi e champagne per finire. Per finire, sì. Basta fare così. Guarda. Metti giù quella sedia a dondolo. Hai ragione, è troppo piccola e oltretutto di profilo somiglia a tua madre. Lascia stare mia madre che non c'entra. Lo so che non c'entra in questa sedia a dondolo, ma c'entra con la mia crisi coniugale. C'entra per aver festeggiato il lieto evento che saresti tu. Eleuterio, sta fermo. Tanto in caso di un suicidio l'assicurazione non ti pagherebbe. Eleuterio, posa la cassapanca. Aiuto, portiere. Vieni qui, non fuggire. Abbi il coraggio delle mie reazioni. Non vieni qui. Non fare il dente aguzzo, Eleuterio. Aiuto, il vampiro. Perfettamente li ricordo i particolari. Stavamo aspettando l'ora di cena e tu, per un non nulla, ti sei fatto venire un attacco di nervi, tanto per partire appena arrivato. Ma un sabato nuovo ti porterà di nuovo qui da me e io farò finta di niente. Ciao. Bentornato, Eleuterio. Di là c'è un biglietto di ringraziamento dei 60 cadetti. Hanno ricevuto ognuno il portachiavi d'argento con la tua firma in ricordo della bella serata. E l'orefice aspetta il saldo della fattura.